24. La storia. Il primo è stato John John, il figlio del presidente ucciso a Dallas, un bambino di 3 anni che si stacca dalla madre vestita a lutto per fare il saluto militare alla bara del padre, che 35 anni dopo morirà a sua volta in un incidente aereo. Ma poi ci sono stati tutti gli altri, il figlio di Ted con la gamba amputata per un tumore, poi i figli di Bobby con i problemi di droga e di alcol e ancora i cugini accusati di stupro e quelli morti tragicamente. Era la famiglia reale d'America e tutti Kennedy, belli, ricchi, fotogenici, il sorriso smagliante e inconfondibile, il sogno di una nuova frontiera che ridefinisse i confini della prima potenza mondiale nel segno dei diritti civili, della pace e di un nuovo umanesimo è finita a Dallas. E poi nella corsa spezzata di Bobby, ucciso a Los Angeles nel giugno del 68. La storia dei Kennedy è insomma una tragedia americana. Rileggerla attraverso gli occhi dell'ultima generazione significa raccontare una storia di ambizione, di mancanza di scrupoli, di amori, di ideali, di innocenza perduta, di ribellione. Una storia vissuta sotto l'occhio impietoso del pubblico e degli obiettivi di fotografi e cineoperatori, ma soprattutto una storia del nostro tempo. È morto un Kennedy, uno di noi, e tutta la nostra famiglia lo piange. Ma non è il Kennedy che tutti pensano. Non è John Fitzgerald, il presidente degli Stati Uniti, e neanche suo fratello Bobby, anche lui assassinato qualche anno più tardi. Si tratta di un Kennedy della generazione successiva, la mia. Il primo di noi a morire di morte violenta. Il primo che fa dire a tutti: anche lui era maledetto, come gli altri. Siamo apparsi 1000 volte sui giornali e in televisione. Il mondo intero ci ha visti crescere, giorno dopo giorno. E vedendoci, forse, tutti avevano l'orribile presentimento che questi bambini avessero ricevuto in eredità la morte. David Anthony Kennedy, quarto degli 11 figli di Robert, muore a 29 anni, ucciso dalla droga. Viene sepolto nella tomba di famiglia. Amava ripetere: io non sarò mai un Kennedy rispettato come mio padre, né entrerò mai nella leggenda di famiglia. Magari questo farà sì che mi tolgano dalla foto di famiglia. David combatte con gli stupefacenti da quando è adolescente. È il figlio più ribelle e il più fragile. Il preferito, forse, dei genitori. La leggenda del clan dei Kennedy è stata costruita pezzo a pezzo, decenni prima, da un uomo brillante e spregiudicato che ha attraversato l'Atlantico per conquistare l'America. L'antenato di questi bambini è il nonno Joseph, detto Joe. Nato a Boston nel 1888, nonno Joseph era un abile banchiere che anno dopo anno ha accumulato una fortuna investendo in borsa, acquistando navi, taxi e cinematografi. Era un fervente cattolico, ricco e rispettabile. Sposato a Rose Fitzgerald, la figlia del sindaco di Boston, amava comprare azioni, far crescere il prezzo e rivenderle un istante prima che la bolla scoppiasse. Una delle cause del crollo del 1929. Per nonno Joe gli anni 30, con la Grande Depressione e il proibizionismo, sono stati una benedizione. Lui era convinto di essere il migliore dei mariti ed un ottimo padre. Da questo patriarca è nata la storia dei Kennedy. La storia di una tribù segnata fin dall'origine da un uomo deciso a controllare ogni suo discendente come una marionetta. All'inizio della Seconda Guerra Mondiale, Joe viene nominato ambasciatore americano a Londra. Appoggiare Franklin Roosevelt ha portato i suoi frutti. Più che una nomina, è un'incoronazione. Ben presto lo raggiungono nonna Rose e i loro 9 figli. Joe Junior ha 23 anni, John Fitzgerald 21 e Bobby 13. Anche Ted, il più piccolo, ha una sua parte nel copione. Una volta a Londra, infatti, tutti i giovani Kennedy devono contribuire all'affermazione del padre nei circoli diplomatici. L'ambasciatore Kennedy e sua moglie frequentano l'alta società londinese.

Una famiglia potente, affermata, ma che nasconde segreti terribili come quello su Rosemary Kennedy, la terza del clan Kennedy, nata un anno dopo John Fitzgerald e che nessuno ricorda perché Rosemary forse non è abbastanza perfetta per essere una Kennedy. Ma cosa è successo a Rosemary? In famiglia si racconta che era una figlia imperfetta. Imperfetta Rosemary. O forse solo diversa, forse troppo diversa dall'immagine che i Kennedy si aspettavano da una ragazza. Le rimproveravano che le piacesse ballare, che provasse attrazione per i ragazzi. E se fosse rimasta incinta a 20 anni, per i Kennedy sarebbe stato uno scandalo. Non potevano permettere che Rosemary rovinasse il futuro glorioso della famiglia. E così nonno Joe, il patriarca, l'ha fatta lobotomizzare e zia Rosemary è tornata allo sviluppo mentale di una bambina di 3 anni. Qualche anno prima di morire, David ha scritto: se nonno non fosse morto, sarebbe toccato anche a me quello che ha fatto a Rosemary. Lei era un ostacolo e anche io lo sono. Avrebbero tolto anche me dalle foto di gruppo, come hanno fatto con lei. Gli americani non hanno mai sentito parlare di Rosemary Kennedy. Rinchiusa in un convento, è morta nel 2005. Per tutti, i Kennedy sono e devono essere perfetti. Vorrei presentarvi qualcuno della mia famiglia. Questo è mio figlio David. Mio figlio Michael. Kerry. Kathleen. Courtney. Tutti cominciarono a notare che zio Bobby aveva istruito a dovere i suoi figli. Aveva imparato bene la lezione del padre. Il figlio di un Kennedy non si lamenta, non piange. Il figlio di un Kennedy obbedisce al padre e se gli viene chiesto di cantare, deve farlo come un perfetto automa. Quando scoppiarono i disordini razziali nei ghetti neri, zio Bobby riunì figli e nipoti per spiegarci che la sua battaglia per i diritti civili era giusta e necessaria. Anche i più piccoli, secondo lui, erano in grado di comprendere la causa per cui stava lottando. Sono andato nel Mississippi e ho visto che nel nostro paese c'è ancora della gente che muore di fame. Ad Easton, nel Kentucky, ho visto che non hanno cibo. I bambini hanno il latte una volta al mese e non esagero. Questo non va bene. Nella primavera 1968 decise di candidarsi alle elezioni per la presidenza degli Stati Uniti. Zio Bobby è stato il vero modello, l'esempio da seguire per noi Kennedy più giovani. Eravamo troppo piccoli per prendere a modello JFK, mentre Peter Lawford, Robert Schreiber e Steve Smith, i 3 mariti delle sorelle Kennedy, ai nostri occhi non avevano la minima autorità morale. Solo zio Bobby poteva guidarci, aiutarci a crescere. Ma zio Bobby decise di tendere la mano all'America e non alla sua famiglia. Zio Bobby sapeva parlare di futuro agli Stati Uniti come nessun altro. Presto però non sarebbe stato più testimone del futuro dei suoi figli. Non ha mai saputo che suo figlio Robert Jr. si è perso nella droga, che William è stato accusato di stupro, che Michael è morto in un incidente sugli sci, che John è precipitato con il suo aereo e che David, il suo prediletto, ha perso la vita stroncato da un overdose. Vivere con passione, amore e pace. È questo ciò che il paese vuole. E questo è ciò che io intendo realizzare. Zia Ethel è convinta che sarà la prossima First Lady. Ride. Ma fra qualche ora sarà una vedova. Possiamo lavorare insieme, siamo un grande paese. E io ho intenzione fare di questo la forza della mia campagna elettorale. Zio Bobby aveva un servizio di sicurezza ridotto al minimo. Ripeteva sempre: a che serve? Tanto se mi vogliono mi prenderanno comunque. Lo hanno preso. Era troppo bello, troppo ricco, troppo sicuro di sé, troppo fortunato. Un altro Kennedy è morto. Bobby Kennedy, anche lui assassinato durante la corsa alla Casa Bianca a Los Angeles il 6 giugno del 1968. L'America piange un altro Kennedy. Mix 24, la storia. Bentrovati su Radio 24 con la storia dei Kennedy. È il 6 giugno del 68 e il sogno americano svanisce sotto i colpi della pistola che uccidono Robert Kennedy. Il fratello più piccolo, Ted, lo ricorda così durante il funerale nella cattedrale di San Patrizio a New York. Chi di noi lo ha amato e oggi è qui per l'ultimo saluto, preghi affinché ciò che lui ha fatto per noi e che desiderava per gli altri un giorno si realizzi in tutto il mondo. Molte volte diceva: alcuni uomini vedono le cose come sono e si chiedono perché. Io sogno cose che non esistono e mi chiedo perché no. Il treno che trasportava la bara di Bob Kennedy da New York a Washington impiegò 8 ore. Lungo i binari, centinaia di migliaia di americani si misero in fila per un ultimo tributo. Quando videro la madre in lacrime, i figli di zio Bobby si resero conto che era la prima volta che vedevano un Kennedy piangere. Rory Elizabeth Catherine Kennedy, la figlia postuma. Appena uscita dalla clinica, zia Ethel per prima cosa l'ha portata sulla tomba del padre. La prima uscita della bambina è stata al cimitero. Solo dopo l'ha presentata al resto della famiglia. Da quel momento, zia Ethel si è comportata in modo orribile con i figli. È diventata cattiva, ingiusta, aggressiva. I bambini dovevano solo subire e in casa regnava il caos. Sembrava non sopportare più i suoi figli. Li ha lasciati vagabondare e a poco autodistruggersi. Come è previsto, zia Jackie ha sposato Aristotele Onassis, costringendo Caroline e John John a chiamarlo papà. Zia Jackie aveva 39 anni, Onassis 62. Il magnate greco aveva pensato di rivelare alla stampa i legami che proprio zio Bobby aveva avuto con zia Jackie. Ma non lo fece, perché finalmente Jackie era libera dai Kennedy. L'ultimo anello della catena si era spezzato. Si sono sposati a Scorpios, la sua isola privata, alla presenza dei due figli di zio Jack, chiusi nel ricordo del padre, mentre zio Ted ha negoziato il contratto matrimoniale. Tre giorni dopo, Onassis è tornato ad Atene da solo, mentre zia Jackie è tornata a New York. Onassis, presto disincantato, ha accusato la moglie di essere solo una cacciatrice di diamanti che parla continuamente di Bobby, come se rifiutasse di dimenticarlo. Come gran parte degli americani, anche noi Kennedy ci indignammo per il comportamento di zia Jackie. Per noi bambini niente sembrava avere più senso e questo matrimonio fu la conferma che tutto e niente è possibile. Uno di noi ha detto: prima della morte di zio Bobby c'erano mille cose che non avrei mai osato fare, ma dopo la sua morte ci siamo accorti che non c'erano più ragioni per cercare di essere dei bravi ragazzi e che al contrario potevamo essere dei balordi. Nel novembre 1969 tutta la famiglia Kennedy venne chiamata al capezzale del patriarca Joe, ormai moribondo. C'era anche zia Jackie, che trascorse la notte accanto al suo letto. Con la morte dell'anziano ambasciatore, la storia di noi Kennedy parve interrompersi, stavolta per sempre. Tutti i maschi dominanti erano morti. Sapevamo tutti che zio Ted non era all'altezza. quando nel 1980, inaspettatamente, si è presentato alle elezioni presidenziali con i democratici, tutti noi giovani Kennedy lo abbiamo sostenuto. Ma lo zio è stato sconfitto alle primarie da Jimmy Carter. Un Kennedy sconfitto non era mai capitato. In quel momento abbiamo capito che i Kennedy avevano chiuso con la politica. Ci siamo sentiti storditi, persi. Zio Ted è stato il pilastro di un castello di carte. La sua disastrosa campagna elettorale ha esasperato la rivalità fra cugini e fratelli. I giornali sarebbero tornati a parlare di lui per l'alcolismo di sua moglie o quando a suo figlio Teddy venne amputata una gamba a causa di un cancro. Ma di certo non avrebbe mai potuto essere la figura di riferimento per i più giovani, che ancora continuano a chiedersi chi fra loro abbia ricevuto il dono. Nonna Rose è morta a 95 anni. E non ha fatto in tempo a vedere qualcosa che i suoi figli Bobby e John non avrebbero mai immaginato. Un presidente degli Stati Uniti, nero. Alla fine, quelli che sembrano essersela cavata meglio sono quelli di noi che non erano Kennedy, ma solo Shriver, o Lawford, o Smith. Non è stato lo stesso per Robert, figlio di zia Eunice, la più Kennedy fra i Kennedy, o per Robert Jr., figlio di zio Bobby, entrambi arrestati per possesso di eroina. Robert, il più ribelle e il più determinato a prendere il potere fra quelli della sua generazione. Un giorno è tornato a casa con dell'LSD e ha convinto David a provarla. Allucinazioni, crisi di delirio. David ha creduto di morire, come il padre. Le sorelle, le cugine, hanno osservato a distanza i maschi superare limiti mai immaginati. Forse le ragazze avrebbero potuto salvare la seconda generazione dei Kennedy. Ma nonno Joe, che aveva cancellato dalla fotografia sua figlia Rosemary e che aveva portato malvolentieri il lutto per la seconda Kathleen, aveva immaginato la sua saga al maschile. E ora, dopo tutto quello che è successo, dopo i sogni infranti, le speranze mal riposte, il mito andato in pezzi, noi altri non possiamo più cambiare nulla di questa storia, scritta col sangue. Era scritto che questi bambini mandati dal cielo ad abitare con entusiasmo la Casa Bianca dovessero conoscere infelicità e sofferenza. Era scritto che dovessero offrire al mondo una leggenda degna della mitologia, ma il destino ha chiesto a ognuno di noi di saldare il proprio debito. Mix 24 torna lunedì in diretta come sempre alle 9. Un ringraziamento a Alessandro Longoni, al mitico stagista Manuel Guerrini e Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Buon fine settimana.